Io insegno qui italiano all'Università Federale di Santa Caterina, a Florianopolis, che è la capitale dello stato di Santa Caterina. Per quanto riguarda appunto quello che sta succedendo qui in Brasile, è molto interessante e vorrei subito cominciare dicendo che le letture che si fanno in Occidente alle volte sono molto riduttive. In che senso? Nel senso che c'è una sottolineatura molto forte di quella che è la violenza, per esempio, poliziesca nelle favelas, ma non c'è una visione di cosa effettivamente le favelas sono oggi e quindi l'interpretazione è distorta. Cioè, sembra una lotta, diciamo, della povertà e dell'emarginazione, e non quello che veramente è, cioè, o per meglio dire, forse sta diventando, cioè, non più la lotta dell'emarginazione, ma la lotta del cambiamento, perché la favelas non è più quella di un tempo, non è più l'orizzonte solo dell'emarginazione, della povertà o dello spaccio della droga, benché queste realtà siano tutt'oggi ovviamente ben presenti nelle favelas, ma hanno avuto un'evoluzione importante. Le statistiche ci dicono che oggi il 65% degli abitanti delle favelas, stiamo parlando di statistiche ufficiali, appartengono a quella che la statistica brasiliana chiama classe media, che non ha niente a che vedere, l'ho già detto nell'intervista di un anno fa, con la classe media nel senso marxiano, diciamo, del termine. Classe media è una definizione puramente statistica. Allora possiamo dire che sono considerati appartenenti alla classe media coloro che hanno un reddito che va nella fascia più bassa dai 300 reais mensili pro capite. 300 reais mensili significano oggi come oggi 100 euro, fino ai 1020, sempre pro capite. Che sono circa 300 euro, poi dipende ovviamente dal cambio. In questo momento l'euro è abbastanza forte. Questo è considerato classe media, quindi poi ci sono altri parametri che sono l'accesso all'istruzione, ad alcuni beni durevoli, eccetera, eccetera. Insomma, adesso è anche complicato. Fatto sta che il 65% degli abitanti delle favelas appartengono a questa fascia della popolazione, quindi in realtà sono dei lavoratori, in sostanza, sono lavoratori, sono studenti. Certo, poi c'è una fascia consistente di lavoro informale, eccetera, eccetera, però una gran parte sono lavoratori, quindi quelli che noi definiremo a tutti gli effetti dei proletari. E le favelas sono diventate, anche perché alcune di loro si sono un po' trasformate, hanno avuto accesso magari appunto all'elettricità, all'acqua in questi anni e anche alle fognature, insomma, sono diventate dei luoghi in cui si concentrano questi movimenti sociali, cioè i fili dei movimenti sociali a cui stiamo assistendo sono fili che partono e tornano nelle favelas, perché nelle favelas abitano la maggior parte di quelli che questi movimenti poi li fanno. Quindi questo è, diciamo, il dato che deve essere un po', secondo me, sottolineato in prima battuta, perché, come dire, no? Parlare sempre della violenza poliziesca nella favela ci dà l'idea di un Brasile del passato che non è più, e di movimenti del passato. Oggi i movimenti sono diversi e hanno una caratteristica urbana molto interessante, perché per esempio se pensiamo che in Europa le esplosioni di violenza urbana che ci sono state nel passato sono state, diciamo, delle meteore che poi hanno lasciato pochi sedimenti organizzativi. Così non è nelle favelas. Nelle favelas si incrociano vari tipi di movimento, quelli per esempio si chiama proprio movimento dei lavoratori senza tetto, no? Movimento dos trabalhadores sem teto, che occupano aree urbane e costruiscono un progetto abitativo e che avanzano varie rivendicazioni. Ci sono i movimenti contro la Coppa del Mondo, No Vai Ter Coppa, e altri che hanno altri nomi, insomma c'è una pluralità di movimenti. E poi ci sono anche ovviamente gli stessi lavoratori che poi vanno a fare gli scioperi, perché in questo momento il Brasile è un pullulare di scioperi in vari settori. Quello dei trasporti è particolarmente toccato, e di questi giorni lo sciopero dei lavoratori della metropolitana di San Paolo, che ha creato delle code, una coda di cioè 280 km di coda, non una unica, insomma, complessivamente la più lunga 72 km, la terza maggior coda di tutta la storia della viabilità brasiliana, i quali chiedono degli aumenti di salario attorno al 12%. La direzione ha offerto il 9, loro non hanno accettato finora, e adesso si vedrà. Comunque è certo un momento favorevole per loro, perché in imminenza dei mondiali hanno una forza di contrattazione molto forte. Ma non sono solo loro. Un altro caso interessante sono gli autotrasportatori di Rio de Janeiro, che dopo vari scioperi, i sindacati, diciamo quelli tradizionali, avevano firmato un accordo con un 10% di aumento, ma una parte dei lavoratori continuano a fare sciopero perché chiedono 40% di aumento, e addirittura il sindacalista, c'è stato il caso di un sindacalista che ha dovuto andare a prelevarlo la polizia e scortarlo fuori dall'assemblea perché, insomma, era stato violentemente contestato. Quindi ecco un altro dato interessante, che appunto molte di queste lotte non sono organizzate dai sindacati tradizionali, ma alle volte appunto dai lavoratori stessi, contro anche le centrali sindacali tradizionali legate alla CUT, quindi attraverso la CUT poi al PT di Lula e Dilma, no? Ci troviamo di fronte ad una fase in cui i movimenti non hanno l'estensione e la presa nella piazza che hanno avuto nel giugno scorso, quando milioni di persone sono scese in piazza, in modo anche sorprendente, ma però, diciamo, da quel momento in poi le lotte non sono mai cessate. Cominciano qua, finiscono, riprendono da un'altra parte, e hanno una pluralità, una complessità molto grande, ma anche molto interessante. Ad esempio, è cresciuto il movimento degli Indios, che magari, pur avendo dei numeri molto, molto piccoli, sono riusciti ad attrarre su di sé l'attenzione. Sono stati a Brasilia, hanno avuto scontri anche loro con la polizia, quali chiedono la reintegrazione, la difesa dei loro diritti. Ci sono dei movimenti di difesa del territorio, ad esempio qui dove vivo io, a Florianopolis. C'è stata l'approvazione di un piano urbanistico, insomma, della città, e ha trovato l'opposizione delle associazioni di quartiere, perché si prevede una cementificazione selvaggia dell'isola qui di Florianopolis. E ovviamente, ecco, c'è questa nuova coscienza della cittadinanza contro, diciamo, il deturpamento del territorio, che è molto forte. Qui in Brasile è stata molto forte negli ultimi anni, la speculazione edilizia è stata fortissima, così come fortissimo è stato, contrariamente secondo me a quello che diceva un articolo di ieri di Repubblica, il disboscamento, la deforestazione, quindi l'attacco a un territorio che tutto sommato è fragile dal punto di vista ecologico, è stato violentissimo. Pensa che il Mato Grosso era una foresta e adesso è quasi, diciamo, in gran parte diventato un'enorme estensione di campi di soia e di cotone e terreno per allevamento, insomma, di bestiame. Insomma, ecco una situazione estremamente variegata, ma anche molto, molto interessante. Quindi, insomma, succederà sicuramente qualche cosa durante i mondiali. Il governo ha tentato di prepararsi. E si sta preparando a questo avvenimento, intanto attraverso la delocalizzazione di famiglie. I numeri che girano su internet alle volte mi sembrano fantasiosi, nel senso che qualcuno parla di 200.000 persone, altri di 20.000, insomma, comunque migliaia comunque di persone, se non appunto decine di migliaia, sono state trasferite o in altre situazioni abitative a causa dei mondiali. E A causa dei mondiali i prezzi stanno schizzando alle stelle. A Rio de Janeiro ci sono delle proteste anche in questo senso, perché effettivamente, cioè, c'è una speculazione anche commerciale, quindi diventa proibitiva la vita per le persone normali, no? Proprio a causa di questo enorme aumento dei prezzi, non solo delle abitazioni, ma proprio anche dei beni di prima necessità, del cibo e così via. Si è tentato nei mesi scorsi, il governo ha tentato di far passare una legge che proibiva, questo è molto interessante, che proibiva l'uso delle maschere, diciamo, del volto mascherato durante le manifestazioni. Perché una cosa interessante del Brasile, già l'altra volta ti ricordi, parlavamo del fatto che in Brasile lo sciopero è pagato. Cioè, infatti qui, per esempio, i lavoratori dell'istruzione, gli amministrativi e in alcuni casi anche gli insegnanti in molte situazioni, stanno facendo uno sciopero che sta durando da una cinquantina di giorni. Quindi sciopero oltranza, cinquantina di giorni. Perché qui lo sciopero è pagato, questa è una delle grandi armi, della forza che i lavoratori, il proletariato è riuscito a conquistare nel momento della lotta contro la dittatura. Un'altra cosa è appunto questa, che nelle manifestazioni, cioè il Brasile è un paese strano, cioè ha dei picchi, diciamo, di democrazia avanzata che noi non ce li sogniamo. Anche per esempio l'occupazione delle terre è molto più facile qui in Brasile, perché c'è tutta una legislazione che almeno in teoria difende. Rende possibili l'occupazione di terra e l'occupazione anche di aree abitative, che è molto più difficile per il potere qui buttare fuori legalmente le persone quando hanno occupato una casa o un terreno. Comunque, diciamo, ha tentato di far passare una legge in cui si vietavano cioè le persone mascherate durante le manifestazioni, ma non è riuscita a farla passare così. L'ha fatta passare in modo più soft, per cui sarà la polizia, ovviamente si può capire come verrà applicato, sarà la polizia a giudicare se la persona mascherata è pericolosa o no. Però ha minacciato e ha disposto l'uso dell'esercito per difendere, diciamo, il territorio della Coppa, che è stato, cioè, tutte le zone adiacenti al territorio, agli stadi, sono state date in concessione alla FIFA, che ci può fare, insomma, i suoi lauti sulle altre affari. Questo volevo dire, cioè che c'è questa preparazione alla repressione, però anche lì, voglio dire, non è andato tutto proprio come Dilma voleva, insomma, non sono riusciti a far passare questa legge. Sono in sciopero anche i lavoratori della salute di Rio de Janeiro. Ci sono, insomma, tantissimi scioperi. La polizia, in alcuni stati, perfino le forze di polizia protestano. Insomma, è un pullulare di movimenti più piccoli, ovviamente, di quelli, ma disseminati profondamente nel territorio, che stanno innestando delle dinamiche nuove. Secondo questi movimenti, hanno una leadership che non ha niente a che vedere più con i partiti tradizionali, eccetera. Questo è un altro dato estremamente interessante. Intanto, nella maggior parte sono giovani, ovviamente, questa è la grande maggioranza di quelli che partecipano, però anche se non sono solo i giovani, attenzione, è una cosa estesa alla popolazione intera, però ovviamente qui, almeno in passato, il tasso di natalità era ancora abbastanza alto, quindi diciamo la popolazione è ancora relativamente giovane, e anche dei sindacati tradizionali, quindi ci sono nuove forme di organizzazione che stanno sorgendo, capisci? È questo che è anche molto importante. Gli studenti sono quasi, possiamo dire, all'origine dei movimenti, di questi movimenti, e ci sono dentro, perché il movimento Pass Libre, che è stato quello che ha scatenato le manifestazioni di giugno dell'anno scorso, è un movimento che tra l'altro ha una storia, perché adesso non possiamo stare qui a parlare, ma non è nato l'anno scorso, è un movimento che è nato già molti anni prima e che si è diffuso in vari stati, ed è nato dalle lotte studentesche, poi agganciando le lotte appunto dei moradores, cioè degli abitanti dei quartieri periferici e delle favelas, che il problema del trasporto lo sentono in modo violento, sia per le distanze enormi che devono percorrere per andare al lavoro, sia perché i servizi diciamo, di trasporto sono pessimi, e sia per il costo, perché il costo per un salario, diciamo, brasiliano sono molto alti. E quindi questo gli studenti sono ancora tuttora dentro il movimento. Anzi, diciamo, siccome molti di questi studenti sono quelli che poi vivono anche la precarietà del lavoro, perché lo studente in Brasile, lo studente universitario, spesso è anche un lavoratore, questo anche bisogna dire, non dobbiamo avere l'immagine dello studente. Che fa solo lo studente, ma spesso appunto sono anche lavoratori, fanno lavoretti precari e sono quelli che poi oggi si trovano ad affrontare un mercato del lavoro precarizzato, perché il Brasile, con tutto che diciamo sta recuperando, tra virgolette, per certi aspetti in ritardo rispetto alle economie, le grandi economie industriali del mondo. Però lo fa già comunque, non passando diciamo attraverso il fordismo, no? Che c'è stato e c'è, ma passando già alle forme nuove, insomma, di economia post-fordista, quindi con una certa precarizzazione della manodopera, insomma, giovanile. I media brasiliani sono un po' come quelli italiani, sono particolarmente asserviti al potere, eccetera. L'informazione è molto scarsa, però ovviamente c'è l'informazione che poi gira parallelamente attraverso la rete, perché questa è la grande novità dei movimenti di questi ultimi anni, no? Dalla Turchia, eccetera, eccetera, è queste reti parallele che vanno sulla rete, insomma.